Euroreportage. Isin, una battaglia nel nome della biodiversità, di Gigi Donelli. Lunedì 9 settembre la Commissione europea ha proposto un nuovo atto legislativo per prevenire e gestire la minaccia in rapida crescita rappresentata dalle specie invasive. Attualmente in Europa si contano oltre 12.000 specie estranee agli habitat locali. Circa il 15% di queste è invasivo e in rapida crescita. La proposta intende rispondere ai problemi sempre più numerosi causati da queste specie esotiche, problemi che sono soprattutto di ordine economico, ecologico e strategico. A Bruxelles, nel Palazzo Berlaymont, sede della Commissione europea, ne abbiamo parlato con il commissario per l'ambiente, lo sloveno Janez Potocnik. New invasive alien species continue entering and also spreading in the European Union. So, thus, threats from invasive alien species are actually increasing. A causa dell'espansione dei commerci, della mobilità e delle crescenti interferenze ambientali, le specie aliene invasive, che chiamiamo AIS, continuano ad entrare e a diffondersi nell'Unione Europea. La minaccia di queste specie invasive dunque non fa che aumentare. Certo, il problema non è limitato all'Europa, è un problema che riguarda il mondo intero, ma bisogna dire che alcuni paesi, nostri partner commerciali, come l'Australia, la Nuova Zelanda e gli Stati Uniti, hanno già messo in campo una serie di strumenti di difesa. It has been estimated that invasive alien species damage and control measures cost at least 12 billion yearly in European Union, in Europe. È stato stimato che il costo complessivo delle misure di controllo, di intervento e di riparazione dei danni causati dalle AIS ammonta a 12 miliardi di euro. 12 miliardi di euro per la sola Europa. Sarà bene fare qualche esempio perché sia chiaro ciò di cui parliamo. Prendiamo il caso dell'ambrosia, Ambrosia artemisifolia. Si tratta di una specie nordamericana appartenente alla famiglia delle asteracee, molto diffusa in Europa, e con potenzialità allergeniche. In soggetti predisposti, la grande quantità di polline prodotto da questa specie può causare riniti e gravi crisi asmatiche. L'ambrosia è diventata una delle maggiori cause di pollinosi estive. Si parla di quasi 3 miliardi di costi per la difesa dei terreni agricoli, cui vanno aggiunti quasi 800 milioni all'anno di costi sanitari per la cura dei fenomeni allergici. Insomma, non è solo un problema costoso, ma è un problema che tende a crescere e proprio in questo senso la diffusione di specie aliene invasive si rafforza su due fronti. Le cosiddette AIS aumentano e allo stesso tempo si rafforzano e si rendono più aggressive e dannose. La seconda ragione che ci spinge a predisporre delle misure comuni è che gli AIS non rispettano certo le frontiere interne dell'Unione. L'ingresso di una specie vegetale o animale all'interno di un membro dell'Unione diventa presto un problema per tutti, a cominciare dal proprio immediato vicino. Si tratta in tutta evidenza di un classico caso di problema transfrontaliero che va affrontato a livello generale. Facciamo un altro esempio. Gli inglesi lo chiamano Giant Hogweed, proprio come il brano dei Genesis. Questa pianta costa 1 milione di euro di trattamenti solo alla Germania e si sta rapidamente diffondendo in altri paesi. Il terzo punto su cui vorrei insistere è che l'Europa è priva di un quadro unitario per affrontare questo problema. Gli interventi sono parziali, affrontano alcuni fattori specifici, ma non assicurano l'obiettivo 2020 per la biodiversità che ci siamo imposti. Giant Hogweed, quindi una pianta diventata pericolosa a suo malgrado, già raccontata in questo celebre brano dei Genesis. Ma le preoccupazioni di Potocnik guardano altrove, soprattutto a quei 12 miliardi di euro di danni l'anno che vengono appunto registrati e causati dalle specie aliene invasive. Valentina Bastino è Policy Officer presso la Direzione Ambiente della Commissione Europea. Da tempo segue questo dossier. Beh, sono delle specie che vengono trasportate attraverso delle barriere ecologiche. Per barriere ecologiche intendiamo cose come catene montuose, oceani o cose del genere. Vengono trasportate deliberatamente o per errore dall'uomo, quindi dall'uomo che desidera magari introdurre una pianta perché è bella, fa dei bei fiori, oppure per errore, quindi certe specie possono viaggiare nascoste nei container che trasportano merci, giusto per citare un paio di esempi. Non è il problema che vengano da fuori, il problema è quando queste specie si adattano in modo tale per cui cominciano a espandersi rapidamente e vanno a, ad avere un impatto sugli ecosistemi locali e a, in alcuni casi anche avere proprio un effetto su determinate specie che sono native. Fondamentalmente che si espandono al punto tale da avere un impatto sulla biodiversità o sull'economia o sulla salute pubblica. Non è detto che un genere tutto sia invasivo, dipende dalla specie, quindi con questo strumento legislativo andremo a vedere specie per specie quali sono le caratteristiche che potrebbero far sì che una specie sia invasiva o meno. Quali sono queste specie che rappresentano un problema oggi? Beh, ce ne sono numerose, io adesso posso citare alcuni esempi, questo non significa necessariamente che queste specie verranno affrontate a livello europeo perché potrebbero essere problematiche specificatamente su un territorio. Euro Reportage, in collaborazione con Euronet Plus.